Ciao, come stai? Ledwoom è una scuola di lingue creato appositamente per coloro che desiderano scoprire il loro linguaggio ideale e nel caso di coloro che hanno già trovato, continuano la loro formazione in quella lingua al fine di raggiungere una migliore comprensione della lingua in questione. Centro Linguistico Ledwoom ha appositamente personalizzato per ogni gruppo di studenti o programmi in modalità individuali, continuamente e al fine di sostenere tutti gli studenti appartenenti alla famiglia Ledwoom, il centro linguistico è stato in cambiamento e costante sviluppo per fornire agli studenti con l'aiuto di cui hanno bisogno con le classi individuali e di gruppo, inglese, francese, italiano e spagnolo per stranieri.